dicevo, prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, intitolato La lotta quotidiana contro Satana. Come vi ho detto, è un libro che ho scritto questo per aiutare i nostri ascoltatori a capire ciò che insegna esattamente la Bibbia e il Catechismo della Chiesa Cattolica su questo essere che è il nemico, che è l'avversario di Dio e che è il nemico dell'uomo e che in questa vita ci insidia per impossessarsi della nostra anima e portarci alla morte eterna. Quindi un avversario temibilissimo che Dio nella sua misericordia ci ha svelato nella Sacra Scrittura e che Cristo con la sua potenza, potenza d'amore, soprattutto con la sua morte e resurrezione, ha sconfitto, dando anche a noi la possibilità di partecipare a questa vittoria contro il maligno. Naturalmente una vittoria che passa attraverso il combattimento spirituale, una vittoria contro i vizi, contro il peccato, contro il male, contro le tenebre. È una vittoria della luce, della verità sulla menzogna, del bene sul male. E questa vittoria è naturalmente quanto dobbiamo perseguire con tutte le nostre forze in questa vita. Perché? Perché in palio c'è la salvezza eterna della nostra anima. Noi, cari amici, siamo arrivati al capitolo terzo intitolato L'origine del male e ci siamo chiesti come sia nato il male nel mondo. E quando parliamo di male vogliamo parlarne con la M maiuscola, se così si può dire, anche se io nel mio libro ho scritto Satana sempre con la lettera minuscola, anche se in sé per sé, essendo un nome proprio, bisognava scriverlo con la lettera maiuscola, l'ho scritto la lettera minuscola per umiliarlo, e chiedendoci qual è l'origine del male con la lettera maiuscola vogliamo chiederci qual è l'origine di Satana. E abbiamo detto che Dio non ha creato Satana. Dio ha creato gli angeli buoni, e abbiamo detto che gli angeli che sono tutti buoni. Abbiamo detto appunto che noi nel credo, quando diciamo il credo la domenica, diciamo credo in Dio Padre Onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Dio prima ha creato le realtà invisibili che sono gli angeli e poi abbiamo detto appunto che l'insegnamento della scrittura e l'insegnamento della Chiesa è appunto che alcuni di questi angeli creati buoni nel momento stesso in cui furono creati, dice San Tommaso d'Aquino, furono elevati in stato di grazia, però prima di essere ammessi alla visione beatifica sono stati sottoposti alla prova. Anzi, San Tommaso d'Aquino parla addirittura che nel primo istante gli angeli sono stati creati e costituiti in grazia, in amicizia con Dio. Poi, nel momento della prova, nel secondo istante, alcuni si sono ribellati a Dio, volendo essere alla pari di Dio, come dice Tommaso d'Aquino, oppure essere Dio al posto di Dio. Perché alla pari di Dio? Perché si fa questa ipotesi? Perché appunto il serpente in Genesi 3,5 suggerisce ai progenitori di mangiare dell'albero del bene e del male, perché se ne mangerete diventerete come Dio. Quindi c'è questo veleno che il serpente, è il suo veleno questo, la sua aspirazione diventare come Dio, essere adorati al posto di Dio come Satana insinua a Gesù Cristo. Ti darò tutte queste cose se tu prostrato mi adorerai. Ebbene, cari amici, gli angeli, Lucifero, alcuni angeli, lo chiamo Lucifero anche se questo nome non c'è nella Bibbia, viene chiamato comunemente Lucifero, ma in sé per sé nella Bibbia si parla di Satana. E mi fa molta impressione, per esempio, il fatto che la Regina della Pace, nei suoi messaggi a Međugorje, su 50 messaggi in cui cita Satana, lo chiama sempre Satana, cioè il suo avversario, il capo. Il capo Satana e appunto quelli che l'hanno seguito, quanti sono l'abbiamo già detto, abbiamo un accenno in Apocalisse, Apocalisse 12, laddove si parla del drago che cadendo dal cielo si trascinò giù con la coda un terzo delle stelle del cielo, non sono pochi, un terzo degli angeli, è una immagine però a mio parere indicativa. E appunto il male nacque nel momento in cui Lucifero, Satana, volle essere Dio al posto di Dio o diventare simile a Dio. E quindi fu un peccato di superbia, quello del maligno, un peccato di ribellione, il medesimo peccato di noi uomini, il peccato originale di Adamo ed Eva, che volevano essere loro a decidere il bene, a decidere il male al posto di Dio, ed è il peccato anche nostro e soprattutto del nostro tempo, che vuole costruire se stesso al posto di Dio, vuole salvare se stesso al posto di Dio, e sarà anche il peccato degli ultimi tempi. Infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 675 dice appunto che negli ultimi tempi ci sarà la massima impostura, cioè la pretesa degli uomini di salvare se stessi senza Dio. Vedete dunque la radice del male, che è la medesima. È iniziato in Lucifero, voleva essere Dio al posto di Dio. Adamo ed Eva volevano essere, sì, volevano essere, diventerete come Dio, volevano essere loro a decidere il bene e il male. È anche il nostro peccato quando vogliamo vivere la nostra vita senza Dio, senza dipendere, senza adorarlo, senza pregarlo, senza percorrere la via che Lui ci indica. Diciamo che la nostra vita è nostra, la vita è mia, ne faccio quello che voglio io, è il nostro peccato personale ed è anche il peccato del nostro tempo, in special modo in questo tempo in cui il mondo vuole costruire se stesso, il suo futuro, senza Dio, ma senza Dio non c'è futuro. Vedete dunque qual è la radice del male, cari amici, che è sempre quella, è una radice dalla quale poi escono tutti gli altri peccati, una radice sulla quale crescono tutte le male erbe dei sette vizi capitali. Di questo peccato degli angeli, all'origine dei tempi, quindi prima ancora del peccato di Adamo ed Eva, ci sono tracce nella Bibbia, certo ci sono tracce nella Bibbia. Gesù intanto dice, intanto Giovanni nella prima lettera, al capitolo 3, versetto 8, dice appunto del demonio che fu peccatore fin dal principio, ed è Pietro nella seconda lettera, al capitolo 2, versetto 4, che parla esplicitamente del peccato degli angeli, laddove dice Pietro che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio. Ed è anche Apocalisse, capitolo 12, versetti 7-9, laddove appunto l'autore dell'Apocalisse, Giovanni, o naturalmente qualche suo aiutante, che discepolo che scriveva per lui o con lui, scrive che scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Quindi vedete, cari amici, che si parla di questo peccato degli angeli, almeno in due testi del Nuovo Testamento. C'è anche un altro accenno in Apocalisse 9,1, dove si dice che l'astro è caduto dal cielo sulla terra. E quindi questo basta per poter dire appunto cioè basta questa rivelazione, sia pure molto stringata, per poter dire appunto che c'è stata questa catastrofe iniziale della ribellione angelica da cui è nato il male. Quindi com'è che ha avuto origine Satana? Satana ha avuto origine da se stesso, in quanto essendo angelo buono, con la sua ribellione ha pervertito se stesso. Ecco perché Paolo VI l'ha chiamato pervertito e pervertitore, ha pervertito se stesso e da quel momento è diventato pervertitore degli altri, cioè pervertitore dei suoi colleghi, cioè degli altri angeli, e pervertitore degli uomini. Abbiamo detto ieri che comunque c'è, come si vede, indubbiamente, una diversità fra il peccato degli angeli e quello degli uomini. Nasce spontaneo, dunque, cari amici, nasce spontaneo l'interrogativo che ci dice, l'interrogativo di questo tipo, come mai l'uomo è stato perdonato, gli angeli no? Questo è un interrogativo molto interessante, molto importante, perché insomma ad Adamo ed Eva è stata data la possibilità della redenzione, agli angeli no, interrogativo molto importante, perché è proprio rispondendo male a questo interrogativo che alcuni nel corso della storia fino ad oggi hanno parlato della possibilità che Satana si converta, perché dicono è stata data la possibilità ad Adamo ed Eva, perché non dare, perché Dio non ha dato anche a Satana, perché Dio non darebbe, se non altro alla fine dei tempi, anche a Satana la possibilità di pentirsi? Questa domanda è molto pericolosa, è contraria alla fede, contraria alla scrittura, dove non si parla mai di conversione di Satana, ma si parla di fuoco eterno, ed è contraria all'insegnamento del catechismo della Chiesa Cattolica, quindi del magistero ordinario della Chiesa, che come sapete assume un carattere di infallibilità, cioè il magistero ordinario condiviso da tutta la Chiesa e perseverante nel tempo assume un carattere di infallibilità. Però non basta dire che nella Bibbia non c'è nessuna traccia di conversione del maligno, non c'è e non basta dire che anche il magistero della Chiesa parla di eternità dell'inferno, bisogna cercare di dare anche delle ragioni di carattere teologico, cioè l'intellectus fide, cerca di capire perché e agli uomini è stata data la possibilità di convertirsi e a Satana no. E cerca di capire la ragione, il perché. E adesso questo è l'argomento che affrontiamo nel terzo paragrafo del capitolo terzo, siamo a pagina 23 di chi ha il nostro volume, è intitolato Il carattere irrevocabile della scelta angelica. Dunque questo carattere irrevocabile della scelta angelica intanto è sottolineato dal numero 392 dal catechismo, del catechismo della Chiesa Cattolica, dove si dice appunto che tale caduta degli angeli consiste nell'avere questi spiriti creati con libera scelta radicalmente e irrevocabilmente, quindi senza possibilità di cambiare, rifiutato Dio e il suo regno. Ripeto le espressioni molto significative del Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 392. Tale caduta consiste nell'avere questi spiriti creati con libera scelta radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno. Vediamo allora questo carattere irrevocabile della scelta angelica, irrevocabile nel bene ma anche irrevocabile nel male. Come è stata irrevocabile la scelta di Michele e i suoi nel bene, è stata irrevocabile la scelta di Satana e dei suoi nel male. Qualcuno, scrivo, siamo a pagina 23, una pagina molto importante, spero, cari amici, con queste catechesi di chiarire tanti vostri dubbi e anche tante eresie che serpeggiano qua e là sul demonio. Quello che vi insegno, come vedete, è dottrina cattolica pura, 18 carati o 24 carati, come volete, perché è biblica ed è soprattutto una Bibbia letta alla luce del magistero ordinario della Chiesa. Quindi volutamente non ho fatto riferimento alle rivelazioni private, neanche alla vita dei santi e neanche alle rivelazioni private approvate dalla Chiesa, ma ho voluto stare unicamente sul piano di quella rivelazione divina per il quale è necessario da parte nostra l'assenso della fede, perché in fondo le rivelazioni private confermano la fede, ma non c'è l'obbligo da parte nostra di credere alle rivelazioni private, neanche a quelle approvate dalla Chiesa. Mentre c'è l'obbligo dalla fede, l'obbedienza dalla fede, l'obsequium fidei, l'ossequio della fede alla parola di Dio insegnata dalla Chiesa. Dunque vediamo qual è l'insegnamento dalla parola di Dio trasmessa dalla Chiesa per quanto riguarda il carattere irrevocabile della scelta degli angeli ribelli, quindi la impossibilità che il demonio si converta. Vi dicevo, sulla pagina 23 leggiamo e commentiamo. Qualcuno ha pensato che Satana possa convertirsi, se non altro alla fine del mondo, quando, come afferma Paolo, Dio sarà tutto in tutti. Paolo afferma questo nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, versetto 28. Persino spiriti così lontani nel tempo fra loro, come Origene, terzo secolo dopo Cristo, Papini, questo secolo, lo hanno supposto, cioè che Satana possa convertirsi. Ma contro questa ipotesi vi è l'insegnamento della Scrittura e del Magistero della Chiesa sull'eternità dell'inferno. Come sapete, io ho dedicato alla eternità dell'inferno un capitolo intero del mio libro Sguardo sull'eternità. E quindi rimando là per portare tutti i testi dove si parla dell'eternità dell'inferno. Quindi, l'eternità dell'inferno insegnata dalla Scrittura e dal Magistero della Chiesa esclude che Satana possa convertirsi. Non si venga a dire che l'inferno è vuoto perché è un'espressione ridicola, per la semplice ragione che l'inferno è innanzitutto in Satana e nel dannato. Satana e il dannato sono l'inferno. Ecco perché giustamente Giovanni Paolo II dice l'inferno è innanzitutto, è più che altro una situazione esistenziale più che un luogo. Sarà anche un luogo, ma è soprattutto una situazione esistenziale, perché Satana è all'inferno anche quando è qui sulla terra. Perché l'inferno è lui. D'altra parte noi anticipiamo l'inferno nel nostro cuore, siamo già all'inferno quando siamo in stato di peccato mortale. Quindi, cari amici, contro l'ipotesi che Satana si possa convertire c'è l'insegnamento della Scrittura e della Chiesa sulla eternità dell'inferno. Quel via lontano da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, solennemente pronunciato da Gesù, controlla Matteo 25,41, risuona con troppa chiarezza per poter essere occultato o soltanto domesticato, capito? C'è troppa gente che è esperta nell'occultare o nell'addomesticare la parola di Dio. Ma questa è parola di Cristo, via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi questa affermazione di Cristo risuona con troppa chiarezza per poter essere occultato o soltanto addomesticata. Altri si chiedono perché mai Satana e i suoi angeli non siano stati perdonati dopo la loro colpa, mentre per l'uomo c'è stata la redenzione, e si domandano se non siamo di fronte a un difetto della misericordia di Dio, il quale avrebbe trattato gli uomini meglio del demonio. A questo riguardo, cari amici, va risposto che sia gli angeli come gli uomini, prima di essere ammessi all'incommensurabile dono della visione beatifica di Dio, devono passare necessariamente attraverso una prova. Per l'angelo, data la sua natura esclusivamente spirituale, lo status viatoris, cioè lo stato di prova, cioè il tempo della prova, per l'angelo, visto che è solo spirito, dura un solo istante. Chiaro? Per l'angelo, data la sua natura esclusivamente spirituale, il tempo della prova dura un solo istante. Dice San Tommaso, nel primo istante furono creati ed elevati allo stato di grazia, nel secondo istante ci fu la ribellione. Quindi, lo status viatoris, lo stato di prova, per la natura angelica che è spirituale, dura un solo istante, nel quale egli, l'angelo, purissimo spirito, è in grado, noi non siamo in grado perché siamo spiriti incarnati, ma lui è in grado di prendere una decisione in una maniera irremovibile e immutabile. Fatta questa scelta, con perfetta comprensione e assoluta libertà, con piena avvertenza e liberato consenso, il tempo della prova per gli angeli termina in un istante. Loro possono, con assoluta libertà, perfetta consapevolezza e deliberato consenso, possono, possedendosi totalmente in quanto nature spirituali, possono o pronunciarsi per Dio o contro Dio in un modo totale, assoluto e irrevocabile. Quindi, fatta questa scelta con perfetta comprensione e assoluta libertà, il tempo della prova per gli angeli termina ed essi rimangono irremovibili in ciò a cui hanno aderito. Per questo motivo, osserva San Tommaso d'Aquino, gli angeli buoni, avendo aderito irrevocabilmente al bene, sono confermati in esso, mentre quelli cattivi, avendo peccato, rimangono ostinati nel male. Questo è possibile agli angeli perché sono purissimi spiriti e hanno la capacità in un istante di decisioni totali, assolute, irrevocabili. Per l'uomo invece è diverso. Il suo peccato è meno grave di quello angelico, perché l'uomo è uno spirito incarnato e la sua volontà aderisce ad una cosa in maniera instabile, conservando la facoltà di staccarsi da essa per aderire alla cosa contraria. Tu ti accorgi, attraverso la tua esperienza personale, di quante scelte buone hai bisogno per divenire stabile nel bene. Allo stesso modo, l'uomo diviene malvagio non tutto in un momento, ma compiendo un passo dopo l'altro sulla via del male. Detto in altre parole, cari amici, gli angeli, essendo puri spiriti, possono confermarsi nel bene o pervertirsi nel male in un solo istante. Noi uomini, cari amici, per diventare stabili nel bene abbiamo bisogno di un lungo cammino spirituale, perché siamo spiriti incarnati, non ci possediamo totalmente, assolutamente, siamo incapaci con un solo gesto e in un solo istante di fare scelte irrevocabili. Per pervertire noi stessi abbiamo bisogno di un lungo cammino verso la perversione. Per diventare santi abbiamo bisogno di un lungo cammino verso la santità. L'angelo, essendo puro spirito, è capace con una sola scelta di decidere di se stesso e del suo destino. L'uomo, per decidere di se stesso e del suo destino, ha bisogno di tante scelte, o sulla via del bene o sulla via del male. Ma la maggioranza di noi, cari amici, e lo sperimentiamo nella vita quotidiana, un po' fanno il bene e un po' fanno il male. Perché la nostra volontà, essendo incarnata, aderisce e si stacca, sia dal bene come dal male. Quindi, cari amici, l'uomo non diviene mai buono tutto in un momento, è mai cattivo tutto in un momento, ma percorre passo dopo passo la via del bene, come precipita passo dopo passo verso la perversione. Per questo motivo lo status vie, cioè lo stato di viatori, lo stato di pellegrini, cioè il tempo della prova concesso all'uomo, è molto più lungo, mentre per l'angelo un istante, per noi è molto più lungo, e dura tutto l'arco del nostro pellegrinaggio qui sulla terra. Ma attenzione, cari amici, anche l'uomo, nel momento della sua morte, rimarrà eternamente stabile nella scelta maturata in vita. E cioè, se nel momento della morte è per Dio, rimarrà per tutta l'eternità in questa scelta di Dio. Se invece morirà nel rifiuto a Dio, rimarrà per tutta l'eternità nel suo irrevocabile rifiuto. Quindi noi possiamo cambiare la scelta per tutto il tempo della vita, e poi quella scelta che avremo fatto nel momento della morte rimarrà per sempre. Quindi, cari amici, agli angeli, essendo loro puri spiriti, è stato dato un solo istante per scegliere, e a loro è bastato per una scelta irrevocabile. L'uomo, per una scelta irrevocabile, ha bisogno di tutta la vita, ma nel momento della morte, la scelta che avrà in quel momento rimarrà per tutta l'eternità. Adesso, cari amici, permettetevi di fare una piccola osservazione che riguarda un po' la mentalità del nostro tempo, perché noi siamo in un tempo in cui, in un passaggio storico, in cui la gente ha paura delle scelte irrevocabili. Per cui non lo vediamo anche nel matrimonio, no? Come tanti giovani che si preparano al matrimonio, un sì detto per sempre li spaventa. Perché oggi si vive nell'istante e si afferra qua e là, si ha paura di compromettersi per tutta la vita. E tuttavia, cari amici, invece, le scelte irrevocabili fanno parte dell'economia divina. Cioè Dio chiede scelte irrevocabili, chiede il sì, un sì come quello di Maria che duri tutta la vita. Queste scelte irrevocabili, cioè questi sì che Dio ci chiede, fanno parte dell'economia divina. Gesù pone più volte i suoi ascoltatori davanti alla decisione della fede, mediante la quale si ha la salvezza oppure la perdizione eterna. Per gli angeli, purissimi spiriti, tutto si è risolto in un solo istante. Per noi uomini, invece, la vicenda si svolge nel tempo, anche se breve, della nostra vita. Ma attenzione, cari amici, che comunque con Dio bisogna venire al dunque. Cioè, non si può dire sempre ni e so. Con Dio, a un momento bisogna dire sì o no. Con Dio bisogna venire al dunque. Avendoti dato il libero arbitrio, egli ti pone di fronte alle scelte supreme con le quali decidi per l'eternità. Capito? Quindi tu nel tempo della tua vita devi dire no al peccato, no al demonio, rinuncio al demonio, devi dire sì a Dio. Allora ti salvi. Se non c'è questo sì a Dio, se no al demonio, non ti salvi. Il tempo della vita è il tempo in cui deve maturare il tuo sì a Dio. Oppure, disgraziatamente, matura il tuo no a Dio. Negli angeli questo è avvenuto in un solo istante. In un solo istante essi hanno fatto maturare i loro sì e i loro no. Non avevano bisogno di tanto tempo, perché sono purissimi spiriti, non sono spiriti incarnati, non hanno il limite della materia. Ecco dunque, cari amici, perché il demonio non si può convertire, perché la sua scelta contro Dio è stata irrevocabile. Non c'è nessuna traccia nella Bibbia che si parli di resipiscenza dei demoni, o che si inviti i demoni alla conversione. Ho sentito una signora che mi ha chiesto, che mi ha detto cosa deve pensare del consiglio che gli ha dato il suo confessore, che gli ha detto di pregare per Satana, per la sua conversione, perché anche lui è una creatura. Io vorrei chiedere a quel sacerdote in quale passo della scrittura c'è l'invito a invitare i demoni alla conversione, in quale passo della scrittura. Non mi meraviglierei che ci fosse qualche veggente posseduta che gli dà questi consigli, perché io l'ho già sperimentato in altre occasioni, di sacerdoti che parlavano che l'amore di Dio incendiava l'inferno, che l'amore di Dio alla fine distruggeva l'inferno, poi da chi erano imboccati dalle solite veggenti che invece di parlare con Dio sono ingannate e parlano col demonio, il quale naturalmente si diverte a far pregare per la sua conversione. In quale passo della scrittura, dove Dio ci invita a parlare della conversione, a pregare per la conversione del demonio? Dove? Dio ci invita a annunciare la conversione agli uomini. Perché? Perché per ora il tempo della vita è il tempo anche della conversione. Per il demonio la scelta è finita, è totale, irrevocabile. Per lui c'è il fuoco eterno. Quindi, caro amico, non ti suoni, e concludo per oggi, non ti suoni, è troppo severo questo insegnamento della Chiesa, che dice nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 393. Tutoro zecchino quello che vi dico, cari amici. È insegnamento della Bibbia e della Chiesa. Dice il numero 393 del Catechismo della Chiesa Cattolica: a far sì che il peccato degli angeli non possa essere perdonato, a far sì che il peccato degli angeli non possa essere perdonato è il carattere irrevocabile della loro scelta e non un difetto dell'infinita misericordia, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 393.